rispetto al diverso, rispetto all'altro, rispetto allo straniero. E chi vive in periferia, nella periferia urbana, siccome lo ha visto rispetto anche a chi vive dentro a quella realtà, che si dice italiano, ma che non ha il concetto di essere comunque straniero, e di recuperare quindi questa potenzialità dal basso, sente fortemente questa difficoltà a poter in qualche modo lavorare, interagire con le persone per recuperare questa dimensione di un lavoro di recupero dell'altro come possibilità per riconoscere anche te stesso. E quindi questa cultura del noi che dovrebbe entrare dal basso nelle nostre realtà, nelle nostre strade, nel nostro lavoro. Questo assolutamente manca. Vi assicuro che è una sofferenza grande, ed è per questo che forse bisognerebbe recuperare, forse torna uno slogan che per molti può apparire vecchio, per me invece continua ad essere molto attuale, recuperare la strada, cioè recuperare queste istanze e questo lavoro dal basso, perché c'è da recuperare la coscienza delle persone rispetto all'altro. Perché questo processo è irreversibile, è un processo che è irreversibile, che non dobbiamo tollerare e basta, ma che dobbiamo saper recuperare come possibilità per ognuno di noi di rinnovare la nostra identità, di allargare la nostra identità, di non rimanere schiacciati dal nostro patriottismo latente, e imparare a recuperare un'idea di mondialità, che secondo me è fondamentale. Chiudo con una provocazione di Petrella, che è quella, secondo me, fondamentale. Noi dobbiamo assolutamente riuscire a creare, partendo dalle nostre centri, diciamo, territoriali, quindi dalle nostre realtà associative, partendo dal nostro lavoro di base, la capacità di creare, verrebbe da dire, un'internazionale, cioè lo dice Petrella, un'internazionale planetaria, cioè avere la possibilità di recuperare questa dimensione dello spostamento di popoli e di culture come un grande fermento, la possibilità di ridare ancora un po' di futuro al nostro mondo e non come un pericolo da cui difendersi. E con questo concludo.